sta arrivando, 800 watt. Sta arrivando a 9, l'altro giorno sta arrivando a 4, poi di 5. Dai un po' di compressione alla voce, la radio. Sì, l'importante è arrivare bene. Adesso tocco questo e ho attaccato l'altro apparecchio. Poi io mi dici come esco, aspetta. Vai qua, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con questo sei il quarto del radio. Allora, mi senti? Sì, il quarto del radio, il segnale è sempre lo stesso però. Sei in onda. Quasi in onda. Anche più alta. No, non urlare, che se no non ti capisco. Aspetta. Aspetta, la radio è più alta. La radio è più alta, sì, Antonio, però se parli troppo a tono alto, no, non mi comprendo nulla. Ok, adesso meglio va, ho abbassato un po'. Adesso però è abbassato un po' però sei santo. E adesso, certo lo so. E più di prima. Accorda. C'ho un po' così bello che sta rompendo i coglioni. Aspetta un attimo. Dai, può andare anche bene, che ci porta un po' di rumore della stanza, mi apprezzo. E il televisore della camera a letto, sì, più che altro. È un'altra stanza, non di questa, dell'altra. Ehi, vabbè, allora io mi avevo posto sempre il televisore a casa tua, però ti dico che lo sento. Quindi un po' di rumore ci riporta appresso, però già è comprensibile. Ho abbassato appena la porta, così lo so, si sente di meno. Bene, bene. Io mi stavo battagliando con un cazzo di manto, va uno, poi la testa me ne sta sciogliendo. Tutta bestia, cazzo, mi hanno scaldato una cacchiata, basta, vaffanculo. Perché che problema c'è la manta? Quello, l'unica cosa che devi pulire è quella specie di carica che c'è, che parte dal, come si chiama, da fuori. La bobina, quella che c'è piccolina. Lo so, ma questa qui l'hanno smontata, l'hanno tagliata a seghetto. Quindi io ho cercato di, come si dice, di riassemblarla, cercando di togliere i pezzi da dentro, ma è più corta, mi ho dovuto allungare la molla, un casino. La misura è 7,040 m. Per la molla deve salire di 7 cm in pratica dal ribattino. Capito? Questo è il modello senza ribattino, è la prima manta va 1, quella che era, che non ha la fascetta giù nella vetro resina, è rivettata. E infatti dal rivetto sono 7 cm. Sì, lo so, però ne mancano quasi 20-25 cm per ogni stilo, che l'hanno insigata. Punta gli ho messo un radiale di manto battuto, che ha detto. Giù sto cercando di installare la bobina, anche se sono riuscito a scendere a 1,3, 1,2, però voglio portarla ancora giù. Ah, se sei a 1,2 sei quasi a posto. Bisogna vedere se ce l'hai di 40 carri normali o se ce l'hai di 40 sotto. No, l'ho controllata, c'ho due bande giù, c'ho sempre 1 e 2. Quando salgo a 28 c'ho 1 e 3. Vabbè, lasciala così, che non ti fatta fresca. Senti, metti un accordatore piccolino dentro casa e ti accordi, non è che ci sia questo granché di problemi, no? Se c'hai un rosmetro con l'accordatore si apposta, cosa te la frega? Lasciala così, se vuoi puoi diventare scemo. Devi stare a allungare magari 3 cm, 4 cm, io... hai capito? E infatti devo guardare il zinco, che la infilo, poi la tolgo, allungo, perché lo stilo che gli ho messo, siccome gli mancava la punta che la sua originale era spezzata dentro e non c'era. L'ultimo pezzo, quello che... l'ultimo pezzo che ne ha, un pezzo che è rivettato, tipo bloccato, casa e l'altro pezzo, quella non c'era proprio, era aspettata dentro, quindi gli ho filato il radiale della Mantova, tutto, e quindi ho provato che allungare, abbassare, non so, guardare il zinco. Era molto stile di Grand Prix lì per poterti regolare giusto giusto, caro mio. Avete messo un stilo di Grand Prix, avete tagliato quel pezzettino dove avete accorto che avete messo un stilo di Grand Prix all'interno e te l'avete regolato. Ma non ne avevo, cioè, se mi hai dato gli antenna, mi sono dovuto arrangiare, non avevo né niente, né pezzi, nulla. Avevo solo questo pezzo di radiale di Mantova Turbo, dove capita gli avevo tutti cercato di arrangiarsi i muri. Anche la bobina, anche la spirale era rotta, quindi ho dovuto rischiacciarla, fargli un foro, cercare di adattargliela, capito? Sì, capito, ma io si trovano i pezzi di Mantova, se ne vuoi. Dovete chiedere, c'era un sacco di gente di qualche Mantova, c'era un cosa, c'era una Mantova buttata, Mario Massa era a casa sua. Io vi ho dato la gara e gli ho detto di questi, quando avevo voglia, ho detto, e invece non hai trovato niente. Arriva lui, intanto sono sicuro che te la regala. E nuova nuova, gli hanno solamente tagliato i radiali e basta. Per i radiali della Mantova Turbo già lo sai come fare. Basta che gli metti quattro radiali di Grand Prix, come gli ho dato io, e li agganci e si apposta. Lo so, Antonio, ma io non lo conosco a Mario, cioè, non ho capito. Vabbè, se non c'hai corso, poi c'è ragione, che c'è di tutti. Ma c'è ancora, vabbè, non è sia fastidioso, però c'è, è un qualcosa che si porta appresso, sempre però un vento, lo sai, una ventola di alimentatore. E ce l'ho mai, aspetta. Quella qualcosa aspetta. Radio, prima era più completa, adesso si è sistemata. Bene, bene, tu che antenna sei usato, Antonio? Avanti, io ce l'avevo sempre ancora, ma quando l'ho tolta si era giù praticamente tranquillo, che era che veniva troppo male, era veramente incasinata. Le mando a uno si montava meglio, pure tu portando. No, io messo il coso, io l'altro vulcanizzante gli ho messo, non so, l'altro normale, l'altro vulcanizzante sotto. L'unica cosa sui radiali, quella è la cosa più stronza che c'è in pratica. Perché l'alluminio col ferro non va d'accordo. Provoca che il cancro in pratica dell'alluminio, capito? Mano degli ali diventa piacola, poi si spezza. E infatti è quello, infatti stavo dicendo, io la base il fatto che quel piattello che c'è sotto, c'è già la mia, era tutto frantigato, tutto completamente dove c'è attaccato niente, dove c'è attaccato esatto, là, il connettore niente. Quello c'era tutto marcio, era tutto marcio. Poi praticamente i radiali, la maggior parte ci erano spezzati, sono oscillati e spezzati, quindi con i piccoli era solo a buttare la sezione che ne manca, la base, con la carica, così non usciva uno da dentro, manca la palla, quella mia era quella con i riduttori, capito? Ah, ecco, sì, lo sono riduttore, mamma mia, quello c'era Mario Master, c'era già, ho capito quella, la mia è l'inverso, il riduttore non è a meno male. No, la mia aveva i tubi tutti della stessa misura e poi aveva i riduttori, ma che non c'è stato Cristo, la mia è pigliato un seghetto, la mia tagliata si è stata buttata da un barato, la fa il culo. Così, è davanti, ma sono così, sono quelle che stanno facendo adesso, sono così, addirittura adesso c'erano dove mantenere la bobina c'erano le fascette dei tubi dell'acqua, quelli di plastica, quei tubi grandi, quel tipo di fascetta lì ce l'ho messo. Sì, con quella fascettina lì, con il foro filettato, fino a sì, bravo, quella di bravo. L'ultima che avevo comprato la 15 della fascetta. Esatto, possiamo averlo in alluminio, la fascetta, ce l'ha in ferro. Il ferro con la... perché serve quelle fascette per agganciare i tubi di plastica esterni, per esterno, capito? Sì, infatti non sono avanti, tanto ormai stiamo facendo tutto adesso c'è quell'assidio, quello 127, come si chiama? La mia 27L? No, ho visto che c'è al posto della valve, va nel vento, un assidio, un antenna assidio, che c'è 580, tipo la mando, ma mi sembra che si chiama il 127. Non mi sa che in un coso su internet. Non ti conviene la Super Lemse, se c'è ancora. Io di quella, te la ricordi la Super Lem, è uguale alla Mantova, solo che c'è la bobina più lunga e c'ha 4 radiali 2,75, ce ne aveva Santo Satellite. Ma io ho avuto anche altri, la maggior parte, quella di Corso, Daniele Sound, la Stella. Sì, la Stella, ce la conosco. C'era Stella, Superstella, poi hanno fatto la Firenze 2 Explorer, che c'ha 24 radiali, tutti in verde, c'è buttata, c'è dove, via Montegrappa quell'antenna lì, quella Stella. In pratica si stringe con i maricotti e stringi, c'è la filtratura nello stile della lui, infatti quando, dopo che l'avevo piazzata, il tempo di 6 mesi se ne va dalla zona. Sì, vabbè, era esile come antenna, non era neanche paragonabile. Io ne ho pensato poche, allora, nella, con la sella le erba 8, e l'altra le erba 6, c'era con la 8 e con la 6 da già. Però ne avevo pensato una a Daniele Sound, che lui in un palazzo attaccato ne avevo messo due, e una a lui e una al figlio di Giorgio Grassi. Sì, di Mantova, voglio dire, l'ho pensato io. A Daniele Danone, quello che abitava vicino a Fabio Master, se ti ricordi, che è ancora lì con l'antenna secca e pesta. Poi, dove c'è un'antenna, deve solo andare a staccarla, parlo di tutto, insieme alla, alla, come si chiama, alla Skylab. Che via Duca di Abruzzi, quella di Antonio Reventi che non ci abita più, che ha lasciato l'antenna tutto il campo. Devi solo andare a cercare il capocondomino e te la stacchi la manto, guarda. Quella di Daniele Danone l'ho piazzata io, lì di Fabio a casa di Fabio Master. Quella l'avevo messa io, cazzo, ma come? Nel 1997 forse. E ancora lì c'è che pesta, ho visto. C'è anche la mantova di coso, di quello che faceva l'elettricista, che non mi ricordo, abitava a Monte Bianchino, abbiamo messo via via della Grand Prix, solamente ha sollevato la bobina di da 5 a 10 cm, ma era un treno, era. Poi lui è morto, non so se ci sia ancora l'antenna soprattutto di, della villetta di casa dove abitava lui. Sì, ce ne sono, se vai in giro per la città di antenne ce ne sono tante, solo che quando vai a smontare hanno le dimensioni, non riesci a togliere un elemento verso l'alto, come fai a portarti via 6 metri di antenna intera? Sì, già lo so. Magari se è stato, se è andata bene, gli hanno messo un altro vocalizzatore, sei anche fortunato. L'unica cosa che si possono toccare sono i radiali, ma non è un problema, per la mantova 5 basta usare il trapanino e ti togli il coso, il pezzo di rame che c'è all'interno. Il dato non, i radiali non escono, questo ti è poco ma sicuro, il foro dove ci sono le vettine. E gli metti le 29. Sì, anche io ho fatto così a quest'altro, che è stato un poco fa. Io ho fatto il cuore sotto, vabbè, aveva la base rotta, tutta la base rotta, quindi ha solo tre radiali appuntamente. Quindi io ho fatto le pinze, una ho piantato, ho forato, l'ho filettato, gli ho messo una taglia nuova, però ho tre radiali in alluminio. Ho preso un abricano, una cosa di costruire l'alluminio, da otto, però c'è un costo che teniamo da uno perché non lo possiamo mettere, c'è la base, allora si vede, andiamo alla base. Quindi figurati. Ce ne sono anche le assassine, che è pieno. L'unica cosa, guarda, che non sono mai riuscito a trovare, sopra un tetto aveva Firenze 2, quelle sì che erano belle. Non diventavano rugginose, le potevi staccare come quando volevi. Di quelle non ho più visto sopra il piede, sopra i tetti. Peccato, guarda, se riuscissi a trovarla in commercio me l'avrei presa. C'era una al monte, non so se c'è ancora, non ci ho più fatto il caso, era di Roberto Meccanico, niente due. No, non c'è più niente Roberto, è sempre l'officina, va staccato tutto. Gli ho detto di entrare in PMR la volta scorsa, che l'ho visto, 27 non ci sta più entrando da me. Sì, vabbè, no, ma dico, no, ma non è l'officina, dove abitava prima lui, che la utilizzava, ti ricordo un periodo che si assenta. Ah, boh, senz'altro ci sarà. Già ho capito dove è già. A fianco al bar dove c'era la signora Lamparina. Al bar del padre, non dica. Esatto, che poi se il bar del padre lì non c'è più, ho fallito, boh. Sì, cazzo, sono chiuso 15 anni. Figurati, Silvia si sarà sposata e anche l'altra, senz'altro. Sì, e beh, so che ci sono cose. Figurati. Sì, ma c'era la fila, c'era lì via al monte, sperando di trovare a quelle due ragazze. Cazzo di una volta che passavo lì, cazzo, non mi la pena di dicermi, cazzo, tutti i giorni, ogni tanto trovavi un coso, io salivo su, lì al bar insieme a Simona, salivo a bermi la birra ogni tanto, intanto ci trovavo un CB. Sì, già me lo ricordo. Poi si fermava a Corso, Giseo. Poi per ieri si fermava in Chiri, andava lì, beveva, capito, lì al bar, e poi stava lì ad attaccare al bancone. Allora, tutti lì ebbri a gatti. Se no a cosa qui? A Gianfranco, delle sole di Gianfranco, in via del Saleretta, Gianfranco con la Luzza. Dove vedeva la faina delle pizze? Te lo ricordi? No, che fai? Chi sta dicendo Gianfranco? Con la Luzza, quello che vendeva le pizze lì in via del Saleretta, prima di arrivare a Dadeita. Pizza di Faye. E c'era una che modulava. Lui modulava, sì. Anche le sorelle parlavano la paracchina. Ma tu stai dicendo a coso? Sì, che poi lui ha fatto il pasticcere, aveva fatto due anni fa, adesso lavora in ambulanza, c'è un'amicizia su Facebook, ce l'ho, è sempre in ambulanza, gli ha dato l'elco, c'era il PMR l'altra volta, abbiamo tornato quando parliamo il PMR, c'era di quei PMR piccolini, gli ho detto, con questo non arrivi mai a Sosso, gli ho detto. Ho detto vai, dai cinesi te lo compri, tu ce l'avevo io, 5 watt d'uscita, ti ho detto, ti scarichi col dischetto le frequenze PMR, le PD sei a posto. Io non sono preso, però non l'ho mai usato, quindi Bowfing, come cazzo si chiama? Ce ne ho due di quelli io, poi c'ho l'altro, il PMR ce l'ho sempre, lo uso spesso io. No, io ce l'avevo tempo passato, non ce l'ho messo. Ho preso quel Bowfing che diceva per lavoro, poi uno, però non l'ho mai usato, la prima volta mi già funzionava bene già, era qua a casa con la tela in gomma, tranquillamente parlavo con cosa, con Marco Condor che era lì alla chiesa di Balai, figurati. Io un giorno ti ho provato ad accenderlo ma non sento niente, qualche volta sì, qualcuno l'ho sentito però così. Ho visto che qualcuno lo utilizza. E se pieno di gente. Sul canale 1 ci sono quelli del carbone di Pontotores, del figurati. C'è Fabrizio Pirigato che utilizza quel PMR per parlare tra lui e i suoi colleghi. Vabbè, io non ce li ho, non è memorizzata le frequenze, quindi i canali, quindi non lo so, capito. Non gli ho dato una descansione, ma non è che ho le frequenze. Io sono sul 7446081.25. Adesso che me l'hai detto, ma le scarico le tabelle delle frequenze da internet. Scarica le tabelle delle frequenze, così almeno quando sei in giro te lo porto in macchina e basta chiamare, già ti rispondo, già ti tanti già ti sento, voglia, c'è un'antenna grande piazzata qua, c'è la direttiva, figurati. Ma quindi si possono programmare anche col PC, vero? Sì, c'è, puoi scaricare le frequenze anche la PC direttamente senza dischetto, però ci vuole il cavetto, devi comprarti il cavetto per forza, costa una fesseria quel cavetto. E ti scarichi il programma. No, ce l'ho il cavetto, quando l'ho preso completo, di dischetto e di cavetto. E allora scaricati le frequenze. 8 canali LPD, ti metti 8 canali di PMR. Poi il resto che ti rimane ti metti la frequenza che vuoi o ti metti un paio di canali marini, non lo so. Sì, mi ha segnato delle piazze, una di queste sere oggi. E una volta che l'hai programmato lo proviamo a vedere. Già te lo vuoi sentire. Questa mia c'ha la fine, no, ma non è piccolino, non è altro. Però l'antenna in gomma ce l'ho anch'io, ne ho entrambi, c'è l'antenna in gomma, poi ce l'attacco per poter agganciare l'antenna esterna, c'ho la magnetica io, con la Diamond posso agganciarla tranquillamente in macchina, e quindi posso usare il portatile in macchina, ho già provato, funziona un demonio, poi c'ho l'attacco per la finta batteria che va agganciato all'attacco centesica per agganciarla in macchina, quindi utilizzo la 12 volta, posso utilizzare la batteria. Mi manca solo il microfonino e basta, non mi manca altro. Sì, no, io vedi, l'attacco della batteria, quello per la macchina non ce l'ho. Non ce l'ho, c'ho il coso di la voce, ma... No, io c'ho quello dell'attacco della batteria, per la batteria della macchina. Attacco cinesica e con la batteria finta. Bene, bene, no, non pensavo che ci fosse qualcuno. Ma adesso me ne recupero un'antenna. Ti metti una X100, una X30, e la metti lì a casa, a Olia che esci. Oggi ci sarà qualche antenna in vendita su internet per il PMR, magari costerà 10 euro, meno e meno. Ma sono di quelle altre per i drizzi. Ma se mi dici non costa una antenna, non vale un cazzo, non è. Mi dà fare i dubbi, oppure se non mi dico, metto un'antenna. E mettici una cosa allora, una X30, una X300, io ce l'ho la X300, ce l'ho qua, in cameretta, messa da una parte, perché c'ho la direttiva sopra, fra V e U, una 15-20, messa in verticale. Ascolta, ma quei lineari VHF si possono modificare per fare andare in U? Non te lo so dire. Bisogna, forse quelli della CTEVA non dovrebbero andare bene. Bisogna vedere che frequenza fanno. Io ognuno della CTEVA, un uomo che mi aveva dato ancora in scatola, di RVHS, però non si riesce a leggere, non si legge la sigla dei finali per vedere se lavorano anche in altre frequenze. Per cercare sul datasheet, non si legge un cazzo, non si capisce niente. Una sigla e poi non c'è nessun numero, tutto sbiarito. Vabbè, roba vecchia scatolata di dai 40 anni fa. Dovresti controllare a controluce, quella, perché cioè in pratica il numero è cancellato, però se guardi controluce si vede appena il solco, capito? Della sigla. Ho provato ancora con la lente, anche se non so più ho collegato al PC. Nulla da fare, non riesco a... Si vede se qualcosa sotto la sigla del finale, però per quanto riguarda la sigla nel senso la marca è la però non verificavo se c'è capire la marca. Questi normali in qualche catalogo allora, quel lineare qui c'è, controllare che cosa fa. Qualche catalogo, se c'è di vent'anni, qualche catalogo modello vecchio, dei primi della CTE che è uscito. O Midland, aspetta un attimino che controllo. Mi sembra che ci sia un catalogo Midland io. Beh, che è un lineare VHF, ne sono sicuro che ci sono la scatola. Però io vorrei riuscire a capire il valore del finale, la sigla giusta, per cercare sul datasheet per vedere se poteva oscillare anche, se andare anche in altre frequenze. Però riesco a leggere il finale. O altrimenti provare a mettere un altro finale, ma le mani di loro usciarcelo punti, c'è buttato 4 euro di mostra. Ah, eccolo sì. Ma però se è stato voi qualche lineare, appena, fingela. Per un attacco di 4 persone avvenute nel centro di Pesca, sono stati condannati nel gasto il coniugi con il ma il marito di la... Questo è molto vecchio, questo non so se io il catalogo l'ho visto su che sia fornito un singolo, sarà a voi offerto a almeno 40-50 anni. Ascolta, ma assomiglia a bici 150, se sbaglio, come forma? No, questo qui è nero, retto e lungo, con il costruttore rosso, non è illuminato. Come lo chiamano una volta negli anni 90, forse se non mi però la bici di 150 che è tutto nero. E i capi di sotto sono proprio reversati, capito? Invece di essere la pista, sono reversati. Ho capito. Il caravettato, dove si fa? Allora, Maria Cristina Curi ha deciso di andare a Cassazione che c'è una ha accolto la chiesa di Chiesa. Quella notte dopo anche il Papa davanti a diversi testimoni aveva deciso di lasciarlo. 757 non ce ne frega niente, VHF 90, 140, 152, VHF 220, 50, 170. VHF non li leggo. Niente, c'è il 747 che è HF come lineare. AM, FM, SSB, CV, W. Lineare, ma chiamano bene 5 watt, a meno che non in seguito non ti compri un coso, mi quadro in banda e se guarda tutto in culo. Allora, almeno se usi in seguito uno gli hai reso quadro in banda, ti prendi e c'hai tutto, HF, V e U, e c'hai 50 e passa watt. Ho visto qualche cosa. Sono mia 450 euro, e trovi quanti ne vuoi. Carabinieri, 30 marzo, confessando... Ma è stato qualcuno con cui parlare? Sì, io voglio vedere niente. Stavo all'ascolto in cose, cioè. Io adesso sono un po' per accendere queste cose. Però Brigitte è sempre in ascolto sul 7 in PMR, capito? E io sto dicendo, io sento che quelli che portano il carbone per dire, cioè, figurati, allora, questo è 7, 6, 5, 4, 3, 2, c'è una spazzolata, ma non sento nessuno. 50, 25, 18, 12, allora 446, 006, 25 dovrebbe essere canale 1, poi c'è 018, 05, 025, 031, 37, 43, 50, 56, 62, 68, 065, 81, 25 e invece cavale 7. E adesso mi faccio la tabella, poi lo collego al computer, comunque c'erano tutti i PMR, non preoccupati. Basta chiamare, già c'è la gente all'ascolto. Avanti che è? Boh, non sento più niente. Mi sembrava che c'era un bricco, invece non c'era un bricco. Bricco è. Quei portatili ci sono a bricco, ma 19 euro costano. La frequenza è 426, no, 466, 125 c'hanno. E ci sono tutti i cinesi che vuoi lì. C'hanno 8 canali, poi addirittura sono usciti, 19 euro sono usciti quelli digitali. Antonio, è sparito, sì. No, sono qua, però sono il telefono, stavo invece dove ci sono quei portati 19-1 dai cinesi, mia fianca città mercato 19-1 che vendono dentro, ci sono quelli digitali. No, no, già funzionano bene, cioè, perché io li ho comprati. Ho comprato gli 888 della Bonfeng, che ci sono di lì, e funzionano benissimo. E addirittura anche quell'altra marca che è uguale a Bonfeng. So che come frequenza è 462-125. Sono io o il piccolino, quello col display con la tastiera? Ah, tu c'hai quello che ho io. Dopo 5 R più plus. Sì, esatto, sì, dopo 5 eccetera. Quello piccolino con la tastiera, facciamo tanto arancione da qualche parte. E c'era sul fianco a sinistra. E sotto c'è il pulsante celeste A e B. Che c'ha anche la radio FM. Esatto, e tutti c'erano la radio FM. Quel tipo di modello di corsa. Beh, infatti ho fatto quando sono a lavoro, sono porto tranche, metto la radio, metto solo la mano da sotto la radio, ma così a che cosa anda. Cioè va bene, fa anche dall'allarme, fa addirittura con quel LED bianco, quando ti manca la luce lì, c'è la lampadina almeno. Fa tutto, così che non ti fa il bidet. Ma che solo che faccio il bidet qui, così, costano una cazzata e sono meglio di quegli apparecchi VHF e U che vendevano un periodo tanto tempo fa, che costavano 400-500 euro. Te ne ricordi quelli a Linco? Io ce l'avevo, il DJ Marazzoni, il cazzo ho pagato un sacco di soldi, ho comprato la GBC, ma la storia. Sì, io lo so, io ce l'ho gli Aizu, che ho sistemato, l'FT 411E, figurati, 2 metri, ne ho due di quelli, ho speso 30 euro di batterie, mi sono costato più le batterie che l'apparecchio. E infatti è così. No, però non avevo pensato a prendermi da fare per la macchina. Sono così, lo puoi collegare anche all'alimentatore. Sì, con la tacca di sigari. Lo puoi collegare all'alimentatore, sì. No, quello non volevo prendere. Facciamo lo ordine. Ordinatelo già, cioè, già c'è. Vendono anche le antenne, mi sembra che costano 3 euro, quelle lunghe. Io ne ho regalato 3 di quelle. No, non ne ho mai provato, me ne avevo una prima che posso la provare, ma non serve fa un cacchio, veramente non ha anche da buco. Io avevo 3 regalate a coso. Un amico che è giù a coso vicino a Siri. Le importante ce ne sono, gli altri si possono adattare, c'è quella NATO, c'è quella telescopica, che fa un po' di barate. Sì, ce ne sono antenne. Se tu vai scesi, le cambiano uno al giorno le camere, perché prendono per l'antenna e portatile. Poi c'è anche proprio la batteria doppia. Una batteria doppia. No, quello non so la batteria doppia, c'è la normale la batteria. Figurati. Ma offende. Facciamo abbiamo solo quello, e poi abbiamo uno dei garanti. Come tua uscita era? Come te la ingomma? Standard. Io parlavo tranquillamente con Mario Cosa, mi aveva regalato l'antenna della macchina, uguale a quella dei carabinieri, avevo messo a pulire in questo video di Emanuele fuori dalla finestra, parlavo tranquillamente. Aveva dato Mario Chichi, ne aveva 5 o 6 di quelle antenne. Quella ce l'avevo anche io, quella con lo stilo che si arrotolava un po', faceva una sorta di mezzaluna, piccolina, bassa, sulla tasta, boh, 70-70 centimetri. Quella lì è proprio quella, mi avevano dato un paio, me l'avevano dato una, l'avevo regalata e una me l'avevo tenuta io, e quella antenne, ce la usciva bene, e parlavo tranquillamente con questo tipo di giro, ma parlavamo tutti lì. Era molto meno questo tipo qui, usciva la bomba, arrivava il 9 di segnale, lo chiamavo e mi rispondeva, gli detto, ma sei sicuro vedi che ne ascolti, non ti preoccupare, gli altri ascolta adesso a voi, a Santiago 5-6. Ma se l'avevo prestata quella lì, quando ho smesso di modulare, non fa, non me l'avete tornato, avevo lasciato anche la PLC-1000, la Vella Magna della LEM, tutte quante che sa che... Tutte prestate però non sono mai tornate. Perché fanno così, quando le prestano non deve tornare in bio, fanno pittare nulla, tanto diciamo non me ne chiede più, e quindi se ne tengono. E poi a quel periodo avevo smesso di parlare, non stavo usando più, quindi non è che mi sono preoccupato per il fatto che sono preso tutto il tempo passato e ciccio. E adesso te lo devo ricomprare. Lui è cosa ride. Sì, adesso già ne ha lasciato qualcosa, ma come era? Cerco di arrangiarla, la ascolto, la faccio funzionare. Io vi adesso l'antenna in giro, grazie. C'è una cosa, Mario, qui che aveva una quarantina, più di 40 di antenne buttate in cosa, in vicinità vecchia. Non so perché, non l'ho più visto, non so che fine abbiamo fatto da quella roba, ma detto che c'aveva rampato, c'aveva un lineare, trasmettito di FM, trasmettito di TV, tutto rampato, grazie in mezzo ai piccioni. Perché così, perché poi quando smetti, vedi tutto quanto in un angolo. Questa volta te l'ho detto io, vediti con la roba, l'ho pagato un sacco di milioni e adesso vado a vendere, mi dà manco di 200 euro, meglio 200 euro, ho detto che la parte destra, buttata la mondezza come le vedo adesso. Va bene, sì, intanto se aspettavo altri due anni, poi mi danno, ne erano 50. Abbiamo un sacco di strumenti, oscilloscopi, di tutto ci ho preso. Tutto lampato, frequenzimetri, di quei frequenzimetri i primi modelli che c'aveva il display con la, tipo lampadina. Ah, sì, me lo ricordo, ce l'ho avuto anche io uno, poi l'avevo regalato quando mi sono comprato quello digitale. Che figurati. Io vado da lui e gli ho detto, ma non è questo qui, dice questo è un frequenzimetro, ma ha detto, grazie, come lo accendi questo te lo salta in aria. Una cosa del genere, sembrava usare un lineare valvolare, io te non vedo, ci vuole la massa a terra quando lo utilizzi, meglio niente, hai detto la pazzia, vai, te lo vedo, vai, butta, ce l'ho detto, non voglio più avere nascosta, gli ho detto. Ah, non ti volevi fulminare? Te lo credo. Non ti avevo rifatto, ormai quella cosa lì, sono in tanti ormai se ci lo scopri, stanno in tanti. Ormai è uscita tutta roba nuova, ma perché non serve più a niente. Poi io, tutti i miei apparecchi che sono usciti sono, fanno tutto, fanno. La mette la tastiera, non c'è più bisogno di fare né ponti né nulla. Metti Europa e c'hai 200 stato un canale. Lo so, però non sono più come una volta, ma ne ho Parati, compri, cosa fai? Compri quando si brucia ce lo butti, perché a riparare non ne vale manco la pena, è solo esci di testa, tutto microprocessori eccetera eccetera. Ma infatti non è che esci di testa, perché non vuoi fare il proprio, dai, dai, l'unica cosa che devi aggiustare, cioè attento lì, quando lo compri si esce a base, perché di sotto escono a base di radio, deve azzeccare il trimerino dell'L5, lo piccolino piccolino, e metto la manettone, allora funziona bene. Devi stare attento anche come lo uccidi, perché sennò ti rimane pure in mano. Io una volta mi è rimasto un po' tattile in mano a me, aiutati. Gli stavo cambiando non mi ricordo cosa e ci sono staccati i fili, ciao buonanotte, quando sono andato a cambiare i talenti erano fili che come l'ho chiuso si sono staccati di nuovo, gli tornavano a fare il culo, gli altri ce l'ho buttato. No, sono fatta un discorso, devi andare con la mente, devi fare delle cose, sono quelle tecnologie, ci piace portate lei quello vecchio io. 40 canali della Intec, prende con 40S, quello già pompa bene, 12 batterie da 1,5, 1200 mAh a voi, è un treno. E anche io ce l'ho uno di quelli, ma lo devo riparare, perché quando lo accendo, adesso diciamo che quando è stato andato a fanculo, quando lo accendo non si sente una massa. E allora c'è il condensatore vicino all'integrato TDA 2002, se non mi ricordo male, o il TDA 2003. Sì, dove posso sistemare? La famo sono scontato, grazie sono scontato, poi lo sto facendo, sta andando, si sente e trasmette anche. Invece quando è freddo non si sente, non posso creare, quindi sicuramente è legato al canale audio, quello fa che la modulatore che ha integrato audio. È integrato quello 5 piedi, no, è 325, sì. TDA 2002-2003, quello che montava una volta di stereo di una volta. Quel finale di monta, poi ci sono dei condensatori, ci sono lì vicino. Magari è quelli che è messo male in perdita, è una volta che scalda. È vecchio, anche quello già per 40 anni. Io ti credo che con le cose che sono questo che ho io me l'avevo messo a posto io, il cadetto integrato audio, l'antenna gli ho messo quella telescopica sua originale, l'ho pigliata da un portatile, diciamo per pizzi, è molto vecchio quel portatile, non sono riuscito a trovarlo, secondo me l'avevo comprato di nuovo, c'era l'attacco dello spinotto a 4 poli. E c'era una versione 40 canali, l'altro era facciamo 40 canali normale e 40 sotto. Ah, già l'ho visto, che tanto è il compagno che ho visto. Ecco, ogni tanto qualcuno lo prende, non mi più subito, di quello che ho visto. Ma pesavano poco voi, portatevi già. E poi battere il chiuccia, colocò. Sì, avevano l'antenna e ci volevano un'altra persona per tirarla. Lo so, già, infatti... ci ho messo quella io, anche la guarda precisa identica, quindi non c'era nessun problema. La marca di quel portatile è il Maio, questo qua è il Maio VT40, figurati. C'ha lo Smith, quello rettangolare, con una freccia rossa e una freccia celeste. Io ne avevo uno di qui portati lì con l'antenna lunga lunga che mi aveva regalato mio figlio per la 3, lo ricordi per la 3? C'è con la bifoggia, abita qua vicino. Quello è mio figlio, fratello di Babbo, mi aveva regalato lui uno, aveva ragazzi che facevano una certa cosa e poi da lì e ho capito, adesso da un po' che non lo vedo, l'ho visto forse 2 mesi fa, ogni tanto è all'ospedale perché non è che stia molto bene. C'ha quello a fare attaccato, ora gli vuoi fare. Per quello, un capita di fronte a casa mia proprio, la partita proprio di fronte a casa, vicino alla farmacia. Sì, dove c'è il negozio di profumi? Esatto, sì. Esce con Marco il figlio. Esce con? Marco Condor il figlio. Sì, via. Ah, non lo sapevo. questi giorni, cioè uno di questi anni magari, e mettono qualcuno che lo chiappetta bene. Davanti, ma lo riconosco io, magari mi saluta lì per dire, dico boh, ciao, che cavolo è questa boh? Così è, e Paolina, che ho vista l'altro? Paolina, vabbè, ogni tanto al Conad, a fare la spesa. Bene, bene, ma abita sempre lì dalla mamma, oppure anche lei si è sposata? No, no, abita anche lì dalla madre, da quanto so io. Antonello Whisky un mesetto fa, tutti e due vivono a casa della madre. Anche Antonello? Anche Antonello e anche l'altra addirittura, no, la più piccola è sempre si è sposata. La Antonello è invece cosa? Paola, abita tutti e due lì. Ma Daniela si è sposata? Sì, sì. Fa riparazione di computer, quanto so io e basta. Ma non è stato, faceva qualcosa di elettronica, i baracchini facevano, però non l'abbiamo fatto. Adesso si è dedicato al computer. Non l'ho più visto, sono 3-4 anni che non lo sento, non lo vedo. Ogni tanto vedo la sorella. A girare, no, perché sono colpiti, è poco da girare, cioè. Se giro entrambi, una volta giravo in moto, ero sempre in moto io, con lo scuba, oppure con l'altra, sempre a passeggio. Adesso quando era avventata l'assicurazione e poi ci voleva patente, la giubilato, ma la fa ancora tutto. Poi ce la faccio, mi piglio il patentino, parcheggio la moto, devo stare lì con la birra in mano fuori, non sai che passi qualche imbecille, me ne traccia la moto. Il patentino, cioè, non è che due corsi, due documenti, e mi sembra che devo fare 36 ore di studio e basta. E c'è il patentino in mano. La 50, già capito, vedete di piedi, già le ho viste le macchinette, le ho viste, sono anche belline, insomma. E ho male che le cerchie sono usata, ma questo io ce l'ho comprato una usata, l'ho pagata 500 euro, l'ho tenuta a letto, poi la data se l'ha presa una, tranquillo, quando lo fermano bevuto, ah, no, e non dice questo, non niente. No, se sei conto la macchina te la sei questa, non ti posso mettere la parte, non sei fatto niente vera, tutto qui lo usato adesso, tu immaginati che adesso ne ho visto 5-6, non ho più visto scooter 50 in giro, adesso la gente sta comprando quelli scooter elettrici, 850 euro senza casco, senza assicurazione e senza patente. C'è anche, vabbè, 250 watt di potenza, insomma, ma c'è anche la 500, perché quando ho telefonato io ho chiesto, è venuto qua a casa rappresentante, mi ha detto guarda che io, ho detto qua c'è la salita, ho detto manco molto ci sale questa moto, non si preoccupi, ci pensiamo noi, mi ha detto, e sappiamo noi come modificarlo, la facciamo salire a 500, però dice, se devi fare gli affari suoi, mi ha detto. Vabbè, chiaramente faccio gli affari miei. Più di 40-50 all'ora fanno con 500 di potenza. Ma per poco non fai. Non puoi andare lontano, ma se ti devi spostare, almeno se piove non ti bagno, è diverso, dai. Sì, ma è tutto pieno, se tu vai su internet è pieno di macchine elettriche, piccoline. Oramai fra poco vedrai, faranno di tutto per non avere nessuno, non dare più la patente a nessuno, in modo da far comprare le macchine elettriche, vedrai. E quindi chi ha speso tutti quei soldi per la patente sarà attacca dietro. Purtroppo l'ambiente è quello di bisogna preservarlo. Non vuole bene alla sua così a terra, poi ce la prende nel culo. Tutto pieno di macchine 50 su internet, macchine, motorini, biciclette, tutto elettrico. Tra poco lo faranno con la macchina che andrà all'azzurra, vedrai. Tu ci ascolta, portami il Porto Sant'Antonio, mette sale granchivi, basta che non si mette un conto di costi così male che si rampa dentro qualche caso di immondezza. E allora, porta via il circolo del corso, lui si molla lì. Di passa di primi fanno avanti break. Buonasera a todos, comprate una anche a me di moto carrozzella. Oh già, anche tu moto carrozzella? Sì, fa un po' così. Oh già, c'è dare il valore di 100%, come fare me ne viene la battente a me? Tranquillo, anche se sei male lavorando da tutti. Mi potete uscire, anche se non c'hai un Ferrari, ma almeno esce se coperto. Quello sì. Ma bisogna scendere a spingere questa vita, cazzo, non cammina di chi si morto. Quando bisogna che si morto nella strada tutto il traffico si blocca. Quanto la fa il conduttore, se c'era uno che lavorava al comune di Sozzo, che praticamente ce l'aveva bianca. Il tuo esame è tutto un traffico, la fila fissa forse un dollaro. Io vabbè, quello con le AP50 succedeva di solito. Allora ormai ci sono quella che si chiama Giampaolo, la macchinetta 50, già faceva più di 70, mi. Figurati, si può, già lo sai che si possono modificare quelle macchinette 50. Ma sta togliendo la sua fattura. Ma poi modificate ad aprire l'antifrena. È sicuro? Poi ce l'ha fatto quello vola. Lasciate le originali, le cose. Attacca lineare, diceva quella. Che più modifiche fate, più batterie consuma. Ma è perché se no io di elettrico non prenderei mai nulla. Perché poi c'è piombo, o se c'è neve o cose del genere, vanno in tisti con le macchinette. Ma hai visto quello che con l'auto elettrica si è girato tutta l'Italia? Senza mettere carburante. Solo con i pannelli solari. Ah ecco, questa qua caricava pannelli solari. Allora, questa con i pannelli solari, io ho fatto una scommessa. Ci avevo girato tutta l'Italia, l'ho girata senza mettere nessun tipo di carburante, solo con la corrente elettrica. Non era brutta idea, visto, con i pannelli solari. Almeno, non c'è bisogno di carburante né di nulla. E quella è la cosa più bella, non si può rispettare l'ambiente. Guardate che non parcheggia a Napoli quello, solo con la macchina acciappa. Ehi, vabbè, cosa c'entra? È come da ogni parte, secondo lo sai devi stare attento a come la tiene la parte, come la conservi. Però è normale, non funziona così anche con la vicinità. Guarda, te lo dico che è quello che aveva fatto un bel po' di chilometri, si aveva girato quasi tutta l'Italia, è arrivato a Napoli, aveva parcheggiato la bicicletta, che aveva volato la bicicletta. Ha dato la barbara russa a chiedere se quel tipo che gli ha rubato gli ha dato la bandiera, ha detto a me, gli ha scelto il secco, gli ha dato la dritta. Ormai quando te la frega, ma che te la dici? Ma niente, per il loro sputtano, lo dai fuori, no? Quando ero piccolo, cazzo, non mi riconoscevo manco io. Aspetta che sto guardando un attimo. Vediamo se non ti riconosci, ti risultate da piccolo. Cazzo, un buon giovane, ho vinto. Oh, aspetta un attimo che vado un attimino giù. Aspetta, devo fare una telefonata e qua non mi riesco a chiamare. E ha avuto il telefono quello cordless di coso, che usavano una volta, facciamo 25-30 km. Beh già, ma si è combinato di bello. Sì, sto accennando con un'amica, mi ha mandato delle fotografie di quando ero proprio piccolo, avevo avuto 9 anni, 10 anni. Se non mi stavo riconoscendo, non ho capito, mi ha scritto, ma non ti riconosci io. Boh, boh. Hai visto? Caspita. A volte gli amici hanno le fotografie, hai visto? Io non ne avevo in quella lì. Ce l'aveva questa amica mia, Vincenza, che abitava vicino a casa di mamma. Cazzo, allucinante. Hai visto? Vuol dire ti voleva bene quando eri piccolo. Chi è che sta suonando? Scusate che sono al cellulare. Ehi, va bene. Ma dov'è? Dimmi tutto. Dai, mi sto chiudendo, che vado. Non guardate. Sentiamo magari dopo, d'accordo che attacco, là, sono domani. Ehi, d'accordo. Allora, al limite, possiamo domani, non c'è problema. Ciao, buon proseguimento con tutto. Sì, Saluta Gianni. Chiuso anche lui che c'è qualcosa da fare. Bene, bene. Ok, dai, a dopo. Ciao. Sì, ciao, ciao.